Tutto occupato! L'ho occupato tutto lo scompartimento! Ma lei, giovanotto, non ha mai preso un vagone letto? Questi sono posti prenotati, io la cabina 18. 18! Oh, buonasera intanto, ma quale migliore introduzione per la puntata numero 18 di Solo Rete da questo capolavoro che è il secondo tragico Fantozzi, Perla del 1976, con un Paolo Villaggio alle prese con una trasferta a Monte Carlo per vedere giocare chi? Lo dica, ragioniere, lo dica lei. Larga il Duca Conte Semenzara! Largo! Ecco, perfetto, il Duca Conte Semenzara. Di nuovo buonasera a tutti, io sono Matteo Facchini, direttamente o anche indirettamente, se preferite, da i videoblogger. Vi farò compagnia per un'oretta qui su Radio 5.9, intanto che si cuoce il riso. No, vabbè, a parte che un'ora come tempo di cottura del riso, così a spanne mi sembra tanto, eh. Adesso, io non so con precisione, ma mediamente dovrebbe essere di meno, no? Altrimenti si rischia di mangiare del vinavil, della colla, il pappone per i cani. Comunque, ecco, visto che mi sono infilato in questo ginepraio, adesso voi che di sicuro lo sapete, potete fare una bella cosa. Andate sulla pagina Facebook i videoblogger e commentate sotto al post che annuncia questa diretta, oppure inviate un messaggio, un SMS gratuito, un WhatsApp al 327-777-4740, dicendo cosa? Scrivendoci quanto serve mediamente per cuocere il riso. Bene, detto questo, torniamo all'argomento principale di questa trasmissione, che dovrebbe essere, se non sbaglio, la pallacanestro minors di Serie C, gold per l'Emilia Romagna e silver per la Lombardia. Noi siamo quasi pronti per tuffarci a vedere cosa abbiano combinato nell'ultimo turno e cosa riservi invece il prossimo weekend sportivo alle squadre che seguiamo da vicino, e cioè i mantovani del basket sustinente e i modenesi della nuova PSA Modena. Però vi do ancora un secondo. Prima di partire mettetevi comodi, rilassati, spegnete le luci, mentre va la nostra sigla. Eccoci rientrati, siamo pronti adesso per partire sul serio. Serio, tra l'altro, aggettivo che non si confà con questa trasmissione, poco le si addice, ma si sa, noi raccontiamo la pallacanestro a modo nostro. Dunque, dice, ma il sommario? Eccolo, un attimo. Vado a presentare gli ospiti che interverranno questa sera, le voci dei protagonisti dal campo e della panchina. Saranno con noi Fabio Spettoli, il coach della nuova PSA Modena, che è tornato a trovarci, poi Simone Lottici, allenatore della pallacanestro Fiorenzuola, che tanto bene sta facendo in campionato, Matteo Steccanella, capitano del basket sustinente, e Michele Puopolo, da pochissimo sulla panchina di Bottanuco, e sottolineo Bottanuco, squadra bergamasca un po' dai due volti, diciamo così, ma più tardi capiremo il perché. Adesso ci separiamo per una manciata di minuti, giusto il tempo di una canzone, e poi si inizierà a centrifugare pallacanestro. Restate con noi. Song on so many different dials, 'cause I got more hits than a disciplined child. So when they see me, everybody barack baracks. Man, I'm like a young gun, fully black barack. I cry teardrops over the massive attack. I only make hits like I work with a racket and back. Look at my jacket and hat, so damn berserk, so down to earth. I'm bringing gravity back, adopted by the major. I want my family back. People work hard just to get all their salary tax. Look, I'm just a writer from the ghetto like Mallory Black. Man, where the hell's all the that no one cared about. till they hear you out. Eccoci qui, sempre i videoblogger su Radio 5.9, Matteo Facchini con voi per questa puntata numero 18 di Solo Rete, clamoroso a Modena. Eh sì, perché domenica scorsa la nuova PSA ha sfiorato la vittoria. Ecco, adesso i cinici tra voi diranno che sfiorare la vittoria non conta nulla, perdere di un punto, perdere di 40, lascia sempre in eredità una sconfitta, un referto giallo. Sì, avete ragione, però io vi invito anche a vedere le cose da un punto di vista, da una prospettiva differente. Per esempio quella di una squadra che veniva da 15 sconfitte in campionato consecutivamente, si era già trovata nella situazione di un gioco e di un equilibrio nella gara durante alcune, tante forse, fasi di queste prime 15 partite, però non era mai arrivata a giocarsi la vittoria veramente agli sgoccioli dei 40 minuti, ad avere l'ultimo possesso per vincere o l'ultima difesa per impedire agli avversari di agganciare o di controsorpassare. E domenica è successo. È successo due volte, perché la gara è finita non al primo ma al secondo overtime, quindi parliamo di 50 minuti di pallacanestro alle palestre Ferraris. Pontevecchio, i bolognesi sono venuti in trasferta a vincere 75-66. Ma sulla storia di questa partita occorre spendere almeno due parole. Dunque, è stata una gara che si è avviata in maniera esteticamente non bella, sicuramente. È iniziata e proseguita come una partita a bassissimo punteggio, perché dopo 10 minuti Modena conduceva 11-10 e poi alla fine del secondo quarto il tabellone vedeva davanti gli ospiti per 26-23. Un punteggio complessivo dopo 20 minuti di gioco che potrebbe benissimo essere il risultato di un singolo quarto, quindi ecco perché dico partita anche in proiezione, in prospettiva, a basso punteggio. Modena arrivava a questa gara con un doppio handicap, cioè due giocatori del quintetto titolare assenti per infortunio. A dire la verità, Federico Guazzalocca era in panchina ma era fermo per un infortunio muscolare. Mancava Capitan Ghedini, che domenica sera, al momento di andare in diretta su Radio 5.9 per il racconto, per la radiocronaca di questa partita, era ancora ricoverato all'ospedale maggiore di Bologna. Poi sentiremo, anzi Tra poco sentiremo dalle parole di Coach Spettoli qual è la situazione dell'infermeria, con un occhio naturalmente a quelle che sono le condizioni attuali del capitano. Vi posso anticipare che fortunatamente è stato dimesso dall'ospedale, e dunque direi che è corretto e sincero parlare di una Modena in oggettiva emergenza. I ragazzi si sono, adesso veramente occorre fare slalom speciale con gli sci e forse anche un po' in un campo minato per evitare la retorica. Comunque la sostanza è questa: i ragazzi hanno percepito la difficoltà e hanno avuto una reazione che io giudico positiva, propositiva anzi, probabilmente rabbiosa dal punto di vista agonistico al punto giusto. Dopo 40 minuti le due squadre hanno terminato sul 53 pari e Modena, clamorosamente, rispetto a quello che si era visto, ripeto, nelle partite precedenti, aveva preso un buon break nella fase centrale del primo overtime, in vantaggio 59-53 credo, comunque 6 punti. E lì è successo veramente, oltre all'imponderabile, la cosa più brutta che possa capitare su un campo da pallacanestro, infortuni esclusi naturalmente. Cioè Modena ha subito un gioco da 4 punti, fallo di Pederzini su una tripla di Pontevecchio che è andata a bersaglio, era il quinto fallo per Pederzini, che quindi si è gentilmente accomodato non alla cassa ma in panchina. Modena riesce comunque ad arrivare a difendere sul 60-57, quindi più 3, e difende sull'ultima azione di Pontevecchio, e lì la difesa fa acqua da tutte le parti. Pontevecchio continua, comprensibilmente, cos'altro avrebbe potuto fare, a tentare la conclusione dai 6-75, sbaglia una volta, 2-3, prende il quarto rimbalzo alla quarta possibilità, lì la tripla entra, 60 pari, e poi nel secondo overtime molto probabilmente sono terminate sia le energie fisiche nella panchina di Coach Spettoli, già, ripeto, decimata dalle defezioni iniziali, e credo anche le energie mentali. Parziale di 15-6 per Pontevecchio, che come ricordato ha chiuso le ostilità sul 75-66 dopo 50 minuti di adrenalinica pallacanestro. Questo però è il mio ricordo della partita. Adesso andiamo a sentirci la voce ben più importante della coach della nuova PSA, che ci racconta cosa sia successo dal suo punto di vista nella scorsa gara con Pontevecchio, ma soprattutto ci aiuterà ad entrare in prospettiva e a presentare l'anteprima della prossima partita, quella che vede Modena in trasferta domenica alle 18 sul campo difficilissimo di Fiorenzuola. Dunque sentiamo l'intervista a coach Fabio Spettoli. È tornato a trovarci Fabio Spettoli, allenatore della nuova PSA Modena. Bentornato a Solo Rete, coach. Buonasera a tutti. Coach, sei d'accordo? Io questa sera vorrei cambiare una cosa nel mio modo consueto di intervistare gli ospiti, che non è consueto affatto, o almeno spero che non lo risulti. E cioè, invece di dedicare solo un flash all'ultima partita di campionato, vorrei che invece chiacchierassimo soprattutto di quella gara contro Pontevecchio, persa 75-66 dopo due supplementari. Quindi facciamo così: io le darò degli spunti, un paio, insomma uno alla volta, e su questi le chiedo di andare proprio a ruota libera rispetto a quello che lei pensa, ovviamente senza filtri e censure, perché qui a Solo Rete non ce ne sono. Allora, parto senza dubbio dal fatto che non si era mai vista Modena arrivare all'ultimo istante col pallone o con una difesa per vincere. Domenica è successo due volte e questo sicuramente è un elemento di novità, coach. Due volte, però è andata male due volte. Sì, questo è vero. Quindi è un elemento di novità, ma non è cambiato il risultato. Quindi già questo è sicuramente una cosa negativa. Sicuramente la squadra è riuscita nelle difficoltà di avere l'assenza di Ghedini, che a parte quei 9 minuti a Castelnuovo Monti ormai è lungo degente da tempo, anche se con la sfortuna di aver avuto due infortuni diversi, di cui il secondo più pesante del primo, anche l'assenza di Guazzaloca ci ha obbligato a cambiare il piano partita. E la squadra è stata brava da questo punto di vista a compattarsi, a provare a trovare qualche altro punto di riferimento. In particolare Vivarelli è venuto fuori bene nel riuscire a prendersi più responsabilità in attacco. Ancora un pochino alterni, Vucinovic e Pederzini, che però quando hanno giocato insieme bene hanno dimostrato qual è il loro potenziale, e sicuramente Riguzzi sta cercando di rivestire un ruolo da leader che per noi è importante. Il secondo spunto, ci siamo in parte andati con la sua risposta, riguarda l'atteggiamento. Dunque, le percentuali del primo quarto sono state ampiamente insufficienti da parte di tutte e due le squadre. Però a me è piaciuto molto l'approccio mentale alla partita da parte dei suoi ragazzi, perché è chiaro, si viene da 15 sconfitte, manca il capitano, quindi una figura anche importante dal punto di vista carismatico e come leader in campo, che era, come ricordava lei, era appena rientrato tra l'altro dall'infortunio. Manca il top scorer da oltre 16 di media, quindi ci poteva stare un inizio scarico e invece la squadra non si è disunita. Ci poteva stare una partita scarica nella sua totalità, diciamo che le condizioni per fare un pessimo match c'erano tutti, questi sicuramente di questo rendo merito ai miei ragazzi che sono stati bravi a provare a gettare il cuore oltre l'ostacolo. E le assenze le abbiamo pagate, abbiamo avuto secondo me anche la fortuna tra virgolette di trovare una Ponte Vecchio che a differenza delle altre partite è arrivata con le polveri un po' bagnate e questo ha permesso di stare lì. In effetti abbiamo giocato 50 minuti, ma il punteggio sembra quello di una normalissima partita, perché se noi che loro non abbiamo fatto tanto canestro, arrivo a dire loro sicuramente non per merito della nostra difesa, tanti tiri sbagliati con i piedi per terra liberi, perché noi sì abbiamo provato a coprirci un po' soprattutto per limitare i falli con la zona, ma è ancora lontano da essere un nostro marchio di fabbrica, un punto di forza. Purtroppo hanno pesato parecchio il bilancio dei rimbalzi, delle seconde occasioni, anche il rapporto tra assist e palle perse, ma è emblematica la fine del primo supplementare per quel che riguarda quello che dicevo prima, cioè rimbalzi e le seconde occasioni, con Modena avanti 60-57, Pontevecchio che ha troppe volte la possibilità di pareggiare, 3 o 4 consecutivamente, credo, 4 esatto. All'ultima di queste è arrivata la tripla, 60 pari, e lì probabilmente, coach, sono finite anche le energie mentali. Sì, sicuramente sono finite le energie mentali, ma anche fisiche. Riguzzi ha giocato 48 minuti, ha giocato come se fosse una partita NBA, con la difesa che comunque andava sempre a fare degli show molto forti su di lui, addirittura quasi a raddoppiarlo, quindi sono finite le energie mentali e questo ci ha portato nel secondo supplementare a diventare vittima sacrificale. Poi il quinto fallo di Pederzini già nel primo supplementare e il quinto fallo di Vucinovic poi ci hanno dato la mazzata definitiva. Prima di parlare del prossimo impegno, cioè della trasferta di domenica alle 18 a Fiorenzuola, è d'obbligo che io le chieda qual è la situazione degli infortunati, partendo ovviamente dal capitano Ghedini, che a domenica sera era ancora ricoverato all'ospedale Maggiore. Quindi quali sono gli aggiornamenti? No, per fortuna Gianluca è uscito dall'ospedale, quindi insomma sta riprendendo pian piano a fare le sue cose anche dal punto di vista lavorativo, che è sicuramente una cosa importantissima per lui, ma in generale, e quindi insomma dopo quasi 10 giorni di ospedale sono contento che lui possa essere uscito. Sui tempi di recupero per rivederlo in campo ovviamente non ci siamo ancora pronunciati, né noi né il nostro medico, perché è stata una cosa delicata e avrà bisogno di fare ancora degli esami per verificare che è stato tutto a posto. Per quel che riguarda invece Guazzalò, che era un problema muscolare? Problema muscolare all'inguine, questa settimana qua non si allenerà, quindi non sarà della partita domenica a Fiorenzuola. Speriamo di recuperarlo per la partita dopo in casa contro San Lazzaro, che sarà importantissimo per noi. Perfetto, siamo in conclusione. Come detto, domenica affronterete Fiorenzuola, che assieme a Imola e Ozzano, cioè, sembra proprio che stiano facendo un campionato a parte. In più, per la squadra di Lotti ci è arrivata una rotazione ulteriore tra gli esterni, cioè quella di Simone Colonnelli, che è un giocatore che ha le capacità per comportarsi bene anche al piano di sopra. Quanto potrà pesare la consapevolezza di Modena, arrivata domenica, di potersela giocare fino anche alla sirena dei 45 minuti su questa che sembra una trasferta proibitiva? Giocare in 7 contro 5, perché sarebbe quello di cui abbiamo bisogno per affrontare una squadra come Fiorenzuola, non è per fare intelligenti, si conoscono, giocano a memoria, Galli, Lottici, Garofalo, cioè sono veramente una bella squadra, quindi non è la consapevolezza che ci servirà domenica, ci servirebbe qualcosa in più dal punto di vista tecnico, tattico, per provare ad avere qualche arma che permette di limitare un po' gli avversari. È vero, loro stanno facendo un campionato a parte, sono tre squadre che hanno un potenziale e hanno dei risultati eccezionali, e secondo me alla fin fine il discorso promozione è un discorso per loro tre. Secondo me chi arriverà primo avrà il vantaggio di non affrontare una delle altre due in semifinale, e non è una cosa da poco. Noi ringraziamo coach Fabio Spettoli, in bocca al lupo dunque per la richiesta al comitato regionale di poter giocare domenica in 7 contro 5. Speriamo che si possa fare. Speriamo che la colgano. In barba al regolamento. No, scherzi a parte, grazie di essere stato ancora con noi, in bocca al lupo per la partita. A presto. Love right now, I'm fading fast, not gonna last. I'm really stupid, I'm burning up, I'm going down, I'm in it bad, don't even ask. When I find myself in the middle, in the middle, in the middle, could you love me more, just a little, just a little? It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. I'm really sorry. Sorry I dragged you into this. I overthink. That's all it is. Will you love me? Will you love me till the end? Will you love me? It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. When every star falls from the sky and every last star in the world breaks, it's gonna be okay. When every ship is going down, I don't feel nothing when I hear you say, it's gonna be okay. Eccoci rientrati, sempre solo rete qui su Radio 5.9, è l'appuntamento del giovedì sera in cui parliamo di pallacanestro minors emiliana e lombarda. Abbiamo sentito prima della pausa musicale le parole di Fabio Spettoli, allenatore della nuova PSA Modena, che ci ha proposto la sua lettura di certi episodi che sono stati decisivi nella partita di domenica scorsa. Ci ha aggiornato sulla situazione dell'infermeria, ma soprattutto insieme a lui abbiamo iniziato ad introdurre la sfida di domenica prossima, trasferta in quel di Fiorenzuola per la nuova PSA Modena. Io prima ho fatto riferimento a una partita adrenalinica, domenica sugli spalti a destra rispetto alla nostra postazione di commento, avevo non lontanissimo il presidente della nuova PSA Modena, Oreste Vassalli, che vi posso assicurare che nelle fasi finali della partita, quando era veramente concreta la sensazione che Modena potesse staccare il primo referto rosa di questa stagione, ecco, lì definire il presidente agitato non è un eufemismo, è qualcosa di ancora più lontano dalla realtà. Però ecco, io credo, come ho anche detto a microfoni spenti con coach Spettoli, che certi segnali, cioè riuscire ad arrivare comunque a giocarsi una partita, mai tralasciando le assenze, perché comunque ricordiamo che mancavano due titolari, il capitano, figura carismatica, e un giocatore come Guazzalocca che sta viaggiando a oltre 16 punti di media, credo che nella testa dei ragazzi riuscire per la prima volta arrivare a sfiorare la vittoria, certo, chiaro, il referto giallo continua a fare male, però credo che si possa attivare anche qualche meccanismo di consapevolezza che credo possa aiutare anche a lavorare meglio in settimana. Comunque sensazioni che fino a questo momento, anche guardando i punteggi e soprattutto la storia delle partite giocate fino ad ora, non si era mai visto in quel di Modena. Adesso noi però cambiamo la prospettiva, sempre riferendoci alla sfida di domenica, ci spostiamo dalla parte di Fiorenzuola. Io ho qui davanti a me il cammino della squadra allenata da coach Simone Lottici e vi posso garantire che non ha molto da chiedere ancora a questo campionato, cioè qualsiasi cosa abbia chiesto fino adesso bene o male l'ha ottenuta. Io vedo solamente due sconfitte, tra l'altro sono arrivate tutte e due in casa, contro Montecchio e contro Ozzano, e coach Lottici, nell'intervista che ascolteremo tra poco, dedicherà un po' di spazio a queste due sconfitte, qualcosina ci racconterà. E poi il resto sono tutte W, sono tutte vittorie, tutti referti rosa. Una curiosità è che Fiorenzuola, assieme alla Virtus Imola capolista, sono squadre imbattute, non in casa, ma in trasferta. Coach Lottici, dicevo, che è stato un ex giocatore, il cui curriculum è particolarmente lungo, ricco e sostanzioso. La parentesi da giocatore è sicuramente più nobile di quella da allenatore, ma questo non deve sminuire la seconda parte, anzi, il coach però ha giocato in Serie A, ha giocato in Lega 2, ha anche allenato in Lega 2, in quel di Casal Pusterlengo. Però io sono andato a scovare una cosa, diciamo così, nella prima parte della carriera da allenatore di coach Lottici. Sapete che a me il servizio segreto israeliano, il Mossad, mi fa un baffo. Il coach ha allenato una squadra mantovana. Eh sì, ho trovato tracce di mantovanità. E io, secondo voi, potevo non chiedere al coach qualcosa su questa esperienza? Naturalmente no, perché sì, è giusto parlare di Fiorenzuola ed è giusto dipingere al meglio l'anteprima della sfida di domenica. Però la chicca di aver allenato una squadra mantovana non poteva sfuggirmi e non potevo non chiedere al coach di approfondirla. Sentiamo le parole di Simone Lotti. Buonasera a Simone Lottici, allenatore della Pallacanestro Fiorenzuola, e benvenuto qui a Solo Rete. Buonasera. Allora coach, questa è la sua terza stagione sulla panchina di Fiorenzuola. Il primo anno è arrivato a un settimo posto in campionato, ma con una formula del torneo differente che concedeva i playoff solo alle prime quattro. La scorsa stagione parliamo invece di una musica differente, quarti in regular season, fuori in semifinale contro Lugo, che poi promossa in Serie B, e vittoria della Coppa Emilia. Io inizio subito col chiederle qual è l'obiettivo sportivo di questa stagione, anche se mi sembra che la risposta aleggi già nell'aria. Ma l'obiettivo è sicuramente, ci siamo dati in questi anni l'obiettivo di migliorare di anno in anno, no? Perciò dal settimo posto siamo arrivati alla semifinale e quest'anno, se riusciremo, vogliamo giocarci la finale. Poi si sa che quando si è in finale è chiaro che nessuno gioca per perdere, però l'obiettivo è questo. Infatti è stata fatta comunque una squadra di, sicuramente di buonissima qualità, però una squadra molto giovane, e a volte per vincere invece serve anche l'esperienza. Coach, lei cosa ha visto cambiare in questo torneo di Serie C Gold? Cioè, è aumentata la competitività delle squadre in generale, i senior, è aumentato il valore dei giovani? Cioè, quali sono i fattori che lei vede, che lei considera stiano facendo la differenza? Beh, sicuramente il valore dei giovani è importante, nel senso che vedo in diverse squadre giocare dei buonissimi giocatori. Poi chiaramente i giocatori di esperienza, i giocatori di prima fase, fascia e con questi vedo i giocatori di Imola o di Ozzano, sicuramente sono importanti perché comunque le loro esperienze riescono a trasferire alla squadra quella tranquillità e quella lucidità nei momenti importanti delle partite. Coach, le voglio chiedere una cosa personale, ma ovviamente fino a un certo punto. Nel 2015, prima di iniziare a Fiorenzuola, lei veniva da una pausa dal basket allenato, dopo una carriera da giocatore prima e da coach poi, diciamo, piuttosto corposa, ecco. Io le chiedo, quali sono le sensazioni della pausa, dello staccare da qualcosa che è stata la propria vita fino a poco tempo prima? Cioè, magari da fuori può sembrare la cosa più facile del mondo, ma io le chiedo, ci si riesce a rilassare oppure si sentono lo stesso ogni tanto i fischi delle scarpe da ginnastica sul parquet? No, sicuramente non è cosa facile. Io sono riuscito ad ammortizzare bene questo distacco non guardando più una partita di pallacanestro, o comunque non guardandolo più dal vivo, perché voleva dire in tutti i palazzetti comunque non conosciuto, perciò voleva dire ma come mai non alleni, ma come mai il fatto di non andare mi ha tolto veramente questo peso. Ho continuato a seguire il basket in televisione e poi davanti al progetto di Fiorenzuola, cioè di questo gruppo di dirigenti, amici, ho messo ancora la mia esperienza e la mia passione al servizio di questo gruppo, ecco. Certo. Coach, ho fatto riferimento prima al suo curriculum. Ora, io sarei banale, e tendo sempre a non esserlo nelle interviste quanto possibile, se le chiedessi qualcosa sul suo passato da giocatore di Serie A, di Lega 2, da allenatore di Lega 2, cito ad esempio Casal Pusterlengo. Però andando a spulciare, io ho trovato che lei è stato un allenatore di una squadra mantovana, perché lei ha allenato Viadana in Serie C nella stagione 94-95. Io le chiedo se lo ricorda, non lo so, qualche sensazione, qualche flash di quel campionato, perché credo che sia interessante. Ma sicuramente lo ricordo, perché dopo un anno da primatore a Cremona, da giocatore con la salvezza con la Juve Cremona, per motivi societari in pratica ero rimasto al palo e chiaramente non avendo mai fatto il professionista a 360 gradi e avendo un'altra attività non volevo spostarmi da Cremona e decisi dall'oggi al domani di interrompere la carriera di giocatore e di iniziare quella di allenatore. Già avevo fatto i vari passaggi degli esami di allenatore nazionale e a novembre ci fu la chiamata di Viadana, ultima in classifica, e accettai con grande spirito di mettermi alla prova. Quell'esperienza alla fine ci salvammo tranquillamente, addirittura a un certo punto eravamo nei playoff e da lì è iniziata la mia carriera da allenatore. Infatti ho ancora buonissimi rapporti con la dirigenza di Viadana, così come li ho nell'anno successivo con quella di Novellara, e infatti l'anno successivo ci fu il salto in Serie B2 a Novellara dopo la stagione viadanese. Esatto, infatti io ho letto da qualche parte, sempre così andando a indagare, che lei aveva dichiarato che la sua esperienza a Novellara non iniziò in maniera ufficiale, ma con una amichevole, comunque con una partita proprio giocata contro Viadana. Esatto, proprio c'era presente il presidente, il direttore sportivo, la mia squadra di C2 vinse 102-100 e l'allora presidente Ruini con il direttore sportivo Davoli, Giovanni Davoli, si dissero durante la partita: questo è l'allenatore che va bene per noi l'anno prossimo. E a fine campionato ci fu la telefonata e da lì partì anche la mia esperienza in terra reggiana. Coach, le faccio una domanda su qualcosa che può riguardare la sua filosofia cestistica. Dando un'occhiata al ruolino delle big di questo campionato, balza subito agli occhi l'imbattibilità, non assoluta, ma per quel che riguarda le partite in trasferta, vostra e di Imola. Ora sappiamo che si sentono spesso degli adagi, quasi delle regole non scritte: i campionati si vincono con la difesa, con l'attacco, celebre la frase, segnando un punto in più degli avversari, che può anche risultare banale. Si vincono con le vittorie in trasferta. Ecco, questa statistica vostra di Imola mi farebbe andare proprio in questa direzione. Secondo coach Simone Lottici, i campionati si vincono con puntini puntini. È un insieme di cose, sicuramente. Allora, io come mia idea cestistica, mia filosofia, a me piace un basket comunque dove tutti i giocatori siano partecipi, dove tutti i giocatori abbiano possibilità e abbiano soluzioni. Tutte le mie squadre spesso vanno in 5, 6, 7 in doppia cifra, perciò questo è sicuramente lo specchio della mia pallacanestro. Poi chiaramente devo dire, rispetto alla squadra dell'anno scorso, la squadra di quest'anno è maturata anche sotto l'aspetto difensivo. Stiamo migliorando anche difensivamente e credo che l'insieme di queste cose possa portare dei buoni risultati. Ecco. Poi il fatto di anche questo, diciamo, un mio marchio di fabbrica un poco nelle stagioni tra Serie B e Serie A, le mie squadre hanno vinto spesso in trasferta. Non so se questo può portare a arrivare comunque sicuramente per quest'anno il rullino di marcia in trasferta fino ad ora è sicuramente positivo. Anche in casa, anche se in certi momenti abbiamo pagato un po' la sequenza di infortuni che abbiamo avuto, e soprattutto nelle due partite in casa con Montecchio e con Ottano, il fatto di non esserci potuti allenare al completo durante la settimana, perché abbiamo fatto una settimana allenandoci 5-7 e alla fine ci ha portato a giocare delle partite non all'altezza come quelle che avevamo giocato fino a quel momento. Assolutamente sì, ricordo solamente, lo ha fatto anche lei poco fa, la partita con Ozzano, persa 77-75 con giocatori, con defezioni, ecco, da parte di tutte e due le squadre, ma con Fiorenzuola che tira da tre per vincere e sbaglia l'ultimo canestro, quindi un esito che avrebbe potuto essere opposto. Coach, siamo in conclusione, veniamo alla presentazione, a una domanda sulla prossima sfida, quella che vi vede domenica giocare in casa contro la PSA Modena. Ora, lei è un coach che ha troppa esperienza per rispondermi in maniera diplomatica e di questo io sono contento. Modena è una squadra che è in sfiducia, questo non è una considerazione personale ma è un dato oggettivo. All'ultimo turno è riuscita per la prima volta a giocarsi la vittoria all'ultimo pallone, cosa che non è successa per le precedenti 16 partite. Quindi io le chiedo quali insidie potrà presentare questa sfida di domenica, se ne trova, e che partita si aspetta lei? Innanzitutto dico che io non mi aspettavo Modena a 0 punti, ma non perché giochiamo contro Modena, perché comunque è una squadra di ragazzi giovani che con buone qualità. C'era perché ho saputo purtroppo ieri sera dell'infortunio che è capitato a Ghedini la penultima partita. E sicuramente per loro è un giocatore importante perché portava un bagaglio di esperienza importante. Detto questo, io credo che da parte della mia squadra, come spesso e come sempre dico, le partite sono facili e difficili in funzione della concentrazione che la squadra mette dall'inizio. No? Credo che se noi saremo concentrati e desiderosi di fare partita come abbiamo sempre fatto in casa davanti ai nostri tifosi, credo che per Modena ci siano poche possibilità. Però ripeto, anche con San Lazzaro abbiamo avuto una partenza non ottimale e ce la siamo trascinata poi per tutta la partita, no? Però penso che dopo un'esperienza come quella di due settimane fa, la mia squadra abbia un approccio diverso e giochi la partita come le partite in trasferta, dove c'è sempre una concentrazione massimale. Ringraziamo coach Simone Lottici, allenatore della Pallacanestro Fiorenzuola, per essere stato nostro ospite qui a Solo Rete. Facciamo coach a lei e alla squadra l'in bocca al lupo per la partita di domenica. Crepi, grazie e buona continuazione anche a voi. Not trying to be in there, not trying to be cool, Just trying to be in this. Tell me how you do. Can you feel where the wind is? Can you feel it through? All of the windows inside this room. Cause I wanna touch you, baby. And I wanna feel you too. I wanna see the sunrise and your sins just me and you. Light it up on the run. Let's make love tonight. Make it up. Fall in love. Try. Like a jacket, so do yours. We would roll down the rapids to find a wave that fits. Can you feel where the wind is? Can you feel it through all of the windows inside this room? Cause I wanna touch you everywhere. I wanna feel you too. I wanna see the sunrise. Sins just me and you. Light it up on the run. Let's make love tonight. Make it up for love. Try. But you stop it. Go give love to your body. It's only you that can stop it. Go give love to your body. It's only you that can stop it. Go give love to your body. Eccoci rientrati qui a Solo Rete, sempre Matteo Facchini qui su Radio 5.9 a raccontarvi di pallacanestro Serie C Minors nell'appuntamento consueto del giovedì sera. Prima della pausa musicale erano le parole di coach Simone Lottici, allenatore della pallacanestro Fiorenzuola, che ospiterà la nuova PSA Modena domenica sera alle 18. Noi adesso però chiudiamo la pratica dedicata alla Serie C Gold, scendiamo di un gradino, ma non per questo parleremo di cose meno interessanti, cambiamo regione, ci spostiamo in Lombardia per andare a vedere cosa abbia combinato Sustinente dell'ultimo turno di Serie C Silver. Eh sì, questo tono quasi da rimprovero della cosa abbia combinato ci sta, perché Sustinente l'ultimo turno ha perso il derby casalingo contro i gialloneri di Viadana, allenati da coach Danny Stellini. È il secondo derby casalingo che Sustinente perde in questo campionato. Ha vinto il derby con Quistello, ma si giocava in trasferta, era il 24 novembre scorso, ma sabato con Viadana qualcosa non ha funzionato. qualcosa non ha funzionato, gli ingranaggi della squadra allenata da coach Nicola Della Chiesa, questo credo che sia inconfutabile, tant'è vero che nello stesso ambiente sustinentese si è scritto in settimana di sconfitta shock per riferirsi al 72-68 il più 4 con cui Viadana ha trovato a Sustinente un referto rosa, tra l'altro il settimo consecutivo di questa sua ottima fase di campionato. Sommariamente posso dire che è stata una partita in cui nessuna delle due squadre ha espresso una superiorità evidente e schiacciante sull'altra, e il più 4 finale di scarto è sincero rispetto a quanto hanno mostrato i 40 minuti di gioco. Occorre però dire che nelle fasi finalissime della partita, quando Sustinente aveva la possibilità e molto probabilmente doveva, anche se è un verbo che non va sempre benissimo con le vicende sportive, perché non esistono interruttori con i quali una squadra o un singolo facciano o non facciano la cosa giusta, Sustinente aveva la possibilità di ammazzare la partita, di piazzare il break decisivo, quello vincente, dico vincente perché poi anche dal punto di vista del cronometro Viadana non avrebbe più avuto le possibilità di rientrare. Confusione e poca lucidità può essere un'espressione mista che sottolinei quello che è successo a Sustinente negli ultimi 2 minuti di gioco. Viadana è stata più cinica intanto a percepire questo da parte dei propri avversari e poi a sfruttarlo, e il sorpasso finale è stato quello decisivo. Top scorer della partita Cacciavillani per Viadana, che ha dimostrato di essere un pericolo pubblico. Per Sustinente sono stati 4 i giocatori in doppia cifra, 14 punti per Leon Tomic, 12 per Capitan Steccanella e per il play Davide Mantovani, in doppia cifra anche il Cobra Buzzi con 11 punti. Adesso però noi andiamo a sentire proprio le parole del capitano dei Falchi, di Matteo Steccanella, che era un ex di questa partita, ci racconterà che cosa è successo dalla sua prospettiva, cioè quella del campo, e poi insieme a lui entreremo anche nel ben più attuale clima di presentazione della sfida che Sustinente giocherà domani sera in trasferta alle 21:15 sul campo del Bottanuco. Sentiamo Capitan Steccanella. Buonasera a Matteo Steccanella, capitano del basket Sustinente, e bentornato qui a Solo Rete. Okay, buonasera Matteo, buonasera a tutti. Allora capitano, partiamo dall'ultimo risultato, amaro, la sconfitta in casa nel derby contro Viadana. Prima di andare sulla partita, andare a vedere cosa sia successo secondo te e magari anche approfondendo in quali fasi dell'incontro siano successe le cose importanti, quelle che hanno un po' cambiato le sorti della partita, ti chiedo se è stata la gara che tu ti aspettavi. Tu sei un ex, tu conosci bene il loro allenatore, conosci la squadra, anche se è un po' cambiata rispetto all'anno scorso, quindi le aspettative sono state confermate? Sì, cioè, sapevamo che era una partita difficile, tosta, molto fisica, e così è stata. Magari non è stata una partita bella da vedere, ma è stata tosta, quindi sappiamo già tutto. Viadana è una squadra lunga, giovane, che corre, magari non ti fa giocare bene, e alla fine l'hanno spuntata loro negli ultimi 4-5 minuti. Noi non abbiamo più segnato, abbiamo dato via tanti palloni, e loro invece sono stati concentrati fino alla fine e se la sono meritata, è giusto così. Per quel che riguarda il piano partita, cioè come vi stavate avvicinando tatticamente a questa gara, ovviamente le cose macroscopiche, quelle che balzavano subito agli occhi, erano l'alta percentuale di punti segnati mediamente da Viadana, soprattutto nell'ultimo periodo, perché veniva da 6 vittorie consecutive e aveva il miglior attacco del campionato proprio nel pacchetto delle ultime 6 partite. Quindi nel vostro piano partita, voi che siete una squadra che ama correre e che ci può stare anche a un ritmo alto e alla prospettiva di una partita che termini ad alto punteggio, cosa volevate? Noi abbiamo deciso sul loro pick and roll di dare fondo, quindi incanalare verso Leon i loro attacchi da parte dei playmaker e delle guardie. Poi l'idea era quella di limitare anche i tiratori come Cacciavillani, che è uno dei migliori tiratori della loro squadra, ma alla fine, cioè, io considero che la partita, difensivamente parlando, non è stata giocata male. È che non siamo stati, come si dice, molto attivi, svegli negli ultimi 5 minuti, dove forse la stanchezza ha influito, abbiamo perso troppi palloni. Adesso il numero giusto non me lo ricordo, ma secondo me quei 5-6 palloni negli ultimi 4 minuti persi anche in modo anche abbastanza banale. E l'abbiamo pagata cara, eravamo 68-60, la partita è finita 72-68 per via Dana, non abbiamo più segnato per 4 minuti e una squadra come la nostra non se lo può permettere. Andando un attimo su una cosa particolare, quindi su un dettaglio di una di queste cose che tu hai detto che magari non hanno funzionato, tu dal campo hai avuto l'impressione che ci fossero dei problemi di comunicazione, di spaziature sulla difesa zona, cioè che ci fosse una parte di quella difesa zona che era sempre molto libera, sguarnita? Ma l'abbiamo provata in settimana, quindi era stata studiata. Ecco, in partita succedono anche cose particolari in base al momento, in base alla situazione, che sono difficili anche da spiegare. Poteva essere una soluzione, ma non l'abbiamo eseguita secondo me molto bene. Infatti hanno fatto tanti canestri facili con appoggi sotto canestro con passaggi molto semplici. Dovremmo migliorare in questa difesa, che ci può dare grossi frutti. Rispetto all'anno scorso, il primo anno di sostenente nella categoria, alla stessa altezza, quindi sempre dopo 18 partite, il bilancio è lo stesso, 11 vittorie e 7 sconfitte. Tu ovviamente c'eri l'anno scorso, ma non è questo il centro della domanda. Ti chiedo se tu interpreti questa situazione, più che questo dato, come qualcosa di positivo, come qualcosa di negativo magari rispetto alle aspettative che la squadra poteva avere quest'anno, o se è semplicemente un dato che è indifferente. Ma sicuramente 11 vittorie e 7 sconfitte è un bel cammino. Quindi infatti siamo terzi insieme ad altre due squadre, quindi stiamo facendo un buon campionato. C'è il rammarico per quest'ultima partita, siccome siamo sempre stati sopra, praticamente per quasi 38 minuti, ma io sono soddisfatto del campionato che stiamo facendo. Poi l'anno scorso, in questo periodo, da febbraio, c'è stata situazione di Ovis che ha cambiato un po' il nostro cammino, con Altimani che ha deciso di andarsene, e poi Ovis non ha più giocato, poi abbiamo avuto un tracollo generale, soprattutto psicologico, che ci ha portato nonostante tutto arrivare all'ultima posizione di playoff. Però eravamo totalmente un'altra squadra, c'era totalmente un altro clima, e non penso che succeda ancora. E noi dobbiamo lottare per arrivare alle prime quattro, penso che sia il nostro obiettivo primario e anche quello che possiamo raggiungere. Abbiamo i mezzi, abbiamo le rotazioni, abbiamo i giocatori per farlo, quindi io sono tranquillo e sicuro di arrivare tra le prime quattro, sono convinto proprio. Sono convinto di quello che dici, soprattutto di quello che hai detto in precedenza. Faccio solamente un riferimento per chi ci sta ascoltando. Sostenente lo scorso anno, prima dell'esordio di Hawkins, che è stato nella partita casalinga contro Cremona, veniva da, dunque, 6 vittorie in un pacchetto di 7 partite. C'erano state 5 consecutive, poi la sconfitta a Verola Nuova, vittoria in casa con Gorle, e poi c'era stata la partita contro Cremona, e da lì ci sono state le 6 sconfitte consecutive. Comunque, tornando come ultima domanda su quest'anno e andando in prospettiva alla sfida di venerdì sera in trasferta sul campo di Bottanuco, quando si affronta una squadra in crisi o comunque in una striscia negativa come è Bottanuco, diciamo che c'è sempre la tendenza, anche un po' per diplomazia, perché qui nessuno vuol mancare di rispetto a nessuna squadra, ci mancherebbe altro, c'è un po' questa tendenza a volerla presentare non come una sfida facile, non come una sfida abbordabile, però è chiaro che, tra virgolette, poteva capitare una partita peggiore. Quindi tu che sei capitano e che puoi anche lasciare perdere per un attimo la diplomazia, cosa mi dici per la prossima partita? Ma sicuramente sarà una partita dura, perché adesso mi sembra cos'è 8-9 sconfitte di fila o arrivano, quindi per adesso dei grandi numeri prima o poi capita. Speriamo che non capiti con noi e che continua la loro striscia negativa, a parte gli scherzi. Non sarà facile, perché dicono che è un campo difficile, Bottanucco, non ci ho mai giocato, quindi non so, però sono arrivate voci. E io all'andata sinceramente mi ricordo di una bella squadra, avevano dei lunghi tosti importanti e giocavano bene. Poi sinceramente non so cosa sia successo, perché non mi dispiacevano. Noi abbiamo perso in casa, tra l'altro, contro di loro, la prima sconfitta casalinga, e loro mi erano piaciuti. Poi non so dirti cosa è successo tra di loro in squadra, in società. Però noi comunque venerdì dobbiamo riprendere il nostro cammino, siamo obbligati a vincere venerdì per non mollare la posizione, ecco, per essere sempre lì, dai primi quattro come ti dicevo prima, quindi dobbiamo vincere più partite possibili e poi tiriamo le somme a fine dell'anno per i playoff. Esatto, anche per evitare la seconda volta di una sconfitta consecutiva, che era successo proprio all'andata, come dicevi tu, avevate perso in trasferta sul campo di Viadana, cioè a Castelnuovo di sotto, e poi in casa contro Bottanucco. Quindi Bottanucco è la quinta sconfitta consecutiva, loro hanno appena perso di 7, 67-60 sul campo di Seriana, che è una squadra che dall'inizio stagione stava un po' deludendo le aspettative di tutti, adesso sta riprendendo la propria corsa e sta risalendo la classifica. L'appuntamento con la sfida di Sustinente è per venerdì sera sul campo di Bottanucco alle 21:15. Grazie al capitano Matteo Steccanella e in bocca al lupo per la partita. Va bene, grazie e buona serata. I don't know if you could take it. No, you wanna see me naked, naked, naked. I wanna be a baby, baby, baby. Spinning in his red just like he came from Maytag. Rock a wristed on the brown. When I get like this, I can't be around you. I'm too little to dim down a notch. Cause I can into things that I'm gon' do. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow, thoughts. Wow, wow, wow. When I'm with you, all I get is wild thoughts. Wow, wow, wow. When I'm with you, all I get is wild thoughts. Let's go. I hope you know I'm for the taking. You know this cookie's for the bag. Kitty, kitty, baby, get her things to rest. Cause you done beat it like the 68 Jets. Diamonds are nothing when I'm rockin' with ya. Diamonds are nothing when I'm shining with ya. Just keep it white and black as if I'm your sister. I'm too hip to hop around, time to hit with ya. I know I get wild, wild, wild. Wild, wild, wild thoughts. Wild, wild, wild. When I'm with you, all I get is wild thoughts. Wild. For the taking, I heard it got these other niggas going crazy. Yeah, I treat you like a lady, lady. Fuck you till you burned out, cremation. Make it cream, yeah, Wu-Tang. Throw that ass back, bouquet. Call me and I could get it, you say. I could tell you gone off the door, oh, yeah, yeah. Careful, mama, why what you say? You say. You talking to me like your new bae. New bae. You talking like you trying to do things. Now that pipe got her running like she Usain, baby. You made me drown in it, ooh, touche, baby. I'm carrying that water, Bobby Boucher, baby. And you know I'ma slaughter like I'm Jason. Busted, why you got it on safety? White girl, red shit on brown liquor. I probably shouldn't be around you. Cause you get wild, wild, wild. You looking like it's nothing that you won't do. What you won't do. Hey girl, that's when I told you. I told you. When I'm with you, all I get is wild thoughts. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow, thoughts. Wow. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. When I'm with you, all I get is wild thoughts. Le parole di Matteo Steccanella prima della pausa musicale. Siete sempre su Radio 5.9 con Solo Rete, l'appuntamento del giovedì sera con il Basket Minors. C'è una cosa interessante che occorre notare guardando la classifica prima di spostarci a Botanuco per continuare con la presentazione del match di domani sera. C'è un terzetto di squadre mantovane che segue Prevalle e Soresina, che stanno comandando la classifica a 28 punti. Sono Asola, Viadana e Sustinente, proprio nell'ordine con cui ve le ho lette, tutte e tre a 22 punti, con Asola che è in striscia di 4 vittorie consecutive, 7 invece i referti rosa in fila per il Viadana di coach Tellini. Dunque quest'anno, e lo dico da mantovano, ed è un augurio il modo e il senso in cui lo dico, potremmo avere una fase playoff con tutte le squadre biancorosse mantovane impegnate in questo girone, cioè Asola, Viadana, Sustinente e Quistello. Quistello in questo momento sta arrancando, sta faticando comunque a dirimere l'equilibrio che regna lì nella parte centrale della classifica, perché comunque da Dalmine salendo su fino ad Asola si tratta di un pacchetto di 9 squadre in 4 punti, dunque è una vera e propria tonnara. Quistello cercherà di spezzare, come detto, questo equilibrio, almeno in parte, almeno per quello che è il proprio compito, domani sera alle 21.30 nella partita casalinga contro Lumezzane. Fondamentale questa per la squadra di coach Gabrielli in prospettiva classifica avulsa finale. Lumezzane è a 18 punti, come Quistello, come Verolanuova e siccome Dalmine. Io domani sera sarò al palazzetto di Quistello alle 21.30 per gustarmi questa partita. Voi magari avrete altri programmi, però secondo me sarà una partita interessantissima. Staremo a vedere. Perfetto, trasferiamoci adesso in terra bergamasca, in quel di Bottanuco, dove domani sera alle 21.15 è atteso l'arrivo di Sustinente. Ecco, credo che non sarà un'accoglienza del tipo gli striscioni lungo le vie del paese, benvenuti, e la gente che lancerà petali di rose dalle finestre. Ecco, credo che l'arrivo di Sustinente sia visto con una certa ostilità. Questo naturalmente deve essere detto in termini sportivi, e ci mancherebbe altro. Avevo detto in fase di presentazione degli ospiti Bottanuco una squadra dai due volti, e vi spiego il perché. Bottanuco ha vinto 7 delle prime 8 partite in campionato. Bottanuco è una squadra che viene dal piano di sotto, ha perso la finale per la promozione ma poi è stata ripescata. Un solo stop, quello alla seconda giornata in casa contro Soresina, ma un avvio da 7 su 8 direi che è più che ottimo. Ecco però, nelle successive 10, cioè le partite che vanno dalla sconfitta con Gorle fino a quella dello scorso turno contro Seriana 67-60, sconfitta in trasferta, recitano un misero 1 su 10. Recitano anche un cambio di allenatore. Sì, perché dopo la prima di ritorno, cioè dopo la sconfitta contro Viadana, il 15 di gennaio, coach Alessandro Malvestiti ha rassegnato le dimissioni in accordo con la società, e quindi cambio tecnico sulla panchina di Bottanuco. È arrivato coach Michele Popolo, anzi sarebbe più corretto dire è tornato coach Michele Popolo, che già aveva allenato Bottanuco una stagione e mezza tra il 2011 e il 2013 nell'allora campionato di promozione. Recentemente il coach è stato sulla panchina delle ragazze della Pallacanestro Carugate, formazione milanese di serie A2, e come detto lo scorso 15 gennaio è arrivata la chiamata per il ritorno a casa, il ritorno a Bottanuco per Michele Popolo. Non si tratta dell'unica novità per la squadra bergamasca, recentemente è anche arrivato un nuovo giocatore, si è aggiunto al roster Raffaele Bosio, un'ala classe 91. Di questo e molto altro abbiamo chiacchierato assieme al coach, andiamo a sentirci l'intervista. Buonasera Michele Puopolo, allenatore del Basket Bottanuco, benvenuto qui a Solo Rete su Radio 5.9. Grazie, buonasera a tutti. Allora coach, io ovviamente ho detto benvenuto, nuovo allenatore, ma in realtà è un ritorno a casa. Lei aveva già allenato nel campionato di promozione qualche anno fa, dal 2011 al 2013, sostanzialmente una stagione e mezza, proprio Bottanuco. Poi è iniziata la sua esperienza con la lunga esperienza con la pallacanestro giovanile. E adesso lo scorso 15 gennaio c'è stato il cambio in panchina, le dimissioni di coach Malvestiti e il ritorno, quindi lei ha già giocato due partite, le due trasferte di Soresina e contro Seriana. Arriveremo subito al basket giocato, adesso però io le chiedo le sensazioni di questo ritorno a casa e del ritorno in società. Beh, sicuramente fa molto piacere, nel senso che sono quelle cose che comunque ti fanno capire che hai lavorato bene, perché altrimenti dopo qualche anno, tra l'altro due categorie sopra, la stessa società con cui hai lavorato non ti avrebbe richiamato. Quindi io sono molto contento, è una società che conosco bene e tutto sommato non fa nient'altro che piacere essere stato ricontattato all'inizio come assistente all'inizio dell'anno e adesso come capo allenatore. Appunto il suo arrivo, o meglio come abbiamo detto questo ritorno, non è però l'unica novità di queste ultime settimane per Bottanuco, perché da poco è stato inserito nella roster un giocatore nuovo, è un'ala, classe 91, si chiama Raffaele Bosio, ma al di là dell'anagrafica chiedo a lei coach che tipo di giocatore sia. Ma allora Raffaele ha una lunga esperienza, viene, cioè, nonostante sia abbastanza giovane, viene dal settore giovanile di Udine, ha giocato a Milano sostanzialmente in varie realtà, insomma, ed è un esterno diciamo con le caratteristiche anche da interno, nel senso che è molto ben messo fisicamente, può giocare sia da 3 che da 4, ha un discreto tiro, è un giocatore completo, insomma. Il suo impatto con il campionato, cioè le prime due partite, le prime due trasferte, sono state due sconfitte, però parliamo della trasferta sul campo di Soresina, che verosimilmente mi sento di sbilanciarmi, ecco, ma non credo di essere in pericolo, non credo che cadrò, sarà la formazione che arriverà prima, comunque che si giocherà fino all'ultimo la promozione al piano di sopra, è prima in classifica assieme a Prevalle eccetera. L'altra trasferta, la più recente, l'ultima, è stata sul campo di Seriana, una squadra da cui ci si aspettava di più in riferimento alla scorsa stagione, ha un po' deluso la partenza di Seriana, adesso però la squadra sta iniziando a carburare, quindi si trattava sicuramente di una squadra in forma e in risalita. Chiedo però a lei qual è stato il suo impatto su questo campionato. Ma guarda, la prima partita effettivamente non ci aspettavamo nulla di che, però eravamo pari a 2 minuti alla fine. Quindi tutto sommato ce la siamo giocata molto bene, e invece contro Seriana abbiamo fatto secondo me un piccolo passo indietro, probabilmente pensavamo, dopo una bella prestazione comunque a Soresina, pensavamo probabilmente di essere un po' più avanti, invece abbiamo fatto un mezzo disastro perché abbiamo anche perso la differenza canestri con loro. E insomma c'è da lavorare e c'è soprattutto da mettere qualche punto in cascina, perché comunque sono due prestazioni non male, soprattutto con Soresina ottima, con Seriana non male, non malissimo, però alla fine purtroppo siamo in un momento in cui nel campionato per tutti bisogna mettere i punti in cascina. Coach, io mi limito solamente a riportare il cammino di Botanuco. È chiaro che devo, anche per questione di correttezza, tenere presente il cambio in panchina e evitare di chiederle commenti su una situazione in cui lei non era capo allenatore. Ecco, questo tanto per essere chiari. Però Botanuco è partita con 7 vittorie in 8 partite e nelle ultime 10 ne ha vinta solamente una, cioè quella in casa contro Sarezzo. Quindi, restando sul momento, ripeto, e non parlando di ciò che è stato prima, qual è la situazione della squadra in termini di carica, di morale? Ma allora, prima di tutto non bisogna dimenticarsi che comunque si tratta di una neopromossa, e quindi tutto sommato se avessimo, come dire, fatto un pronostico all'inizio, ci poteva stare anche di stare in queste posizioni di classifica. Sicuramente l'infortunio è un giocatore molto importante come Muschi, e qualche partita che ci è sfuggita ci ha messo in una spirale negativa. Tutto sommato però il morale non è brutto, nel senso che io li vedo in palestra tutta la settimana e effettivamente si allenano molto bene, ci danno. Probabilmente manca solo la vittoria per scacciare un po' di fantasmi, insomma, ma penso che all'inizio dell'anno avessimo comunque pronosticato un campionato di questo tipo, ecco. Forse siamo più sorpresi delle 7 partite iniziali che del resto, insomma. Una metà classifica era più adesso, purtroppo con l'ultimo risultato di Serie A bassa, però tutto sommato ce lo si poteva dare. Poi è un campionato molto corto come punteggi, quindi alla fine basta veramente imbroccarne 2 o 3 e si cambia completamente la tendenza. Certo. Coach, abbiamo fatto riferimento prima alla sua esperienza nel basket femminile, quella più recente riguarda una panchina sulla 2 femminile, sì, di Carugate. Statisticamente però c'è un abisso tra i casi di uomini che allenano giocatrici e viceversa, anzi direi il caso di un'allenatrice alla guida di una squadra senior maschile credo che sia stato recentemente, se non l'unico in Italia, comunque tra i pochissimi. Mi riferisco ad Elena Martini, che la scorsa stagione allenava tra l'altro proprio in questo campionato una squadra mantovana, Bancole, che adesso è il piano di sotto. Le chiedo, secondo lei, e la prego di non essere diplomatico, proprio sia pure crudo, questa statistica, cioè, indica qualcosa che c'è tra le squadre senior che le porta ad optare, a tendere per un coach uomo? È chiaro che non posso chiederle cosa si può fare per risolvere questo problema, ma solamente qual è il suo pensiero. Ma guarda, io penso che dipenda molto dal palmarès che un'allenatrice ha, nel senso che io conosco bene il basket femminile e soprattutto le ex giocatrici che magari hanno giocato ad alto livello, che hanno vinto, che hanno fatto la nazionale, che hanno fatto campionati ad alto livello, sono veramente veramente proprio pari se non meglio degli uomini. Probabilmente in un campionato dove c'è un'allenatrice che parte da zero e che si ritrova ad allenare i maschi, probabilmente o è veramente un mostro dal punto di vista tecnico oppure fa un pochettino più di fatica, ma io ne conosco anche di più di allenatrici femmine, donne che allenano i maschi, molto più di una, insomma. Quindi tutto sommato probabilmente più il livello si alza, parlo di categorie più alte di uomini, e più serve probabilmente un discorso di questo tipo, ecco, di capire il passato da giocatrice o comunque la carriera che ha avuto. Quindi una questione di curriculum. Sì, secondo me sì. Poi mi hai detto di non essere diplomatico. No, ma certo, sì. Anzi, ti ci mancherebbe. E comunque trovarti con una allenatrice che magari ha fatto presenza in nazionale, che ha vinto scudetti e ne ho conosciute, che hanno vinto coppe e ne ho conosciute, è chiaro che, voglio dire, insomma, qualcosa conta sicuramente. Bene. Siamo, coach, in conclusione e veniamo adesso all'anteprima della prossima sfida, quella di domani sera, che vi vedrà in casa alle 21.15 contro il Basket Sustinente. Non so se lei abbia visto o come stia preparando la partita, riferito alle ultime gare, video di Sustinente. È chiaro che non le chiedo, non farò spionaggio industriale, non le chiederò il piano partita, ma semplicemente che tipo di gara tatticamente occorre attendersi. Sicuramente noi dovremmo essere bravi a non farli scaldare, cioè nel senso che loro sono una squadra secondo me molto ben preparata, molto rapida, molto, come dire, fiduciosa, perché comunque conta tanto in questo periodo del campionato. Sicuramente noi dovremmo cercare di difendere l'area il più possibile e probabilmente cercare di limitarli a partire da fuori, ecco. Però diciamo che non mi viene in mente un giocatore, diciamo, particolare da fermare. Sono una squadra molto buona nel complesso e noi dovremmo cercare di utilizzare tutte le nostre armi, soprattutto collettive, per cercare di non metterli in moto, insomma, di fare un po' la nostra partita. Perfetto, dunque ci si aspetta una reazione da Bottanuco dopo le recenti sconfitte e il cambio in panchina, altrettanto se lo aspettano i tifosi di Sustinente dopo la sconfitta recente nel derby contro Viadana. Si preannuncia di conseguenza una partita interessantissima, ricordo domani sera alle 21.15 Bottanuco ospita Sustinente. Noi ringraziamo coach Michele Popolo per essere stato con noi qui a Solo Rete e in bocca al lupo per la partita, coach. Grazie. C'è una regola per cui se non fai l'amore subito non sei davvero sicuro di te. E c'è una favola per cui chi mangia una mela fa il peccato più grande, più brutto che c'è. C'è una regola per cui l'infinito sembra un otto sdraiato per terra come me. Quando guardo le stelle è così normale pensare che questa vita è bellissima, anche se a volte ci tira giù, qualcosa ci tira giù, e che Bologna è una regola che hai provato a spiegarmi tu, non lo dimentico più. Mi ricordo le strade in cui ti ho promesso che sarei cambiato, ma non ho capito come si fa, come si fa, non ho capito come si fa, come si fa. C'è una regola per cui serve andare a Berlino per sentirsi un po' meno normali. E c'è una favola per cui solo i soldi davvero ti fanno stare bene. C'è una regola per cui basta entrare allo stadio e diventare persone sbagliate come me. Quando sto per gridare mi fermo a pensare che questa vita è bellissima, anche se a volte ci tira giù, ci tira sempre più giù, e che Bologna è una formula che hai provato a insegnarmi tu, non lo dimentico più. Mi ricordo le strade dove ti ho giurato di non andare, ma non mi hai mai detto come si fa, come si fa, come si fa. Sì, questa vita è bellissima, anche se a volte mi tira giù qualcosa. cosa mi tira giù. Forse Bologna è una regola che sapevi soltanto tu. Non ti dimentico più. Io non sono partito e non ti ho mai detto se mi hai salvato. E non ho capito come si fa, come si fa, come si fa, come si fa. Non ho capito come si fa, come si fa, come si fa, come si fa. Non ho capito. Eccoci rientrati dopo l'ultimo blocco musicale qui a Solo Rete. Abbiamo sentito anche l'intervista a coach Michele Popolo, da poco allenatore, anzi da poco tornato sulla panchina del Basket Bottanuco. Noi siamo in chiusura, io vi ricordo gli appuntamenti per le sfide di questo weekend. La nuova PSA Modena sarà impegnata domenica sera alle 18 sul difficile campo di Fiorenzuola. Per quel che riguarda invece Sustinente, domani sera trasferta in terra bergamasca sul campo di Bottanuco alle 21.15. Questo appuntamento con Solo Rete finisce qui per questa sera. Vi ricordo però che se volete riascoltare tutte le scorse puntate basta andare sulla pagina Facebook I Videoblogger e nella sezione video trovate tutte le puntate. Dice mai detto video e questa è radio. Sì, lo so, però è l'unico stratagemma per poter avere le puntate su Facebook. Anche se a brevissimo posso già anticipare che ci sarà una sorpresa. Per quel che riguarda invece le dirette sportive, torneremo a risentirci il prossimo weekend, venerdì 9 febbraio alle 21, con Sustinente Virtus Gorle, radiocronaca diretta, e poi due giorni dopo, cioè domenica 11, con la radiocronaca di Nuova PSA Modena, BSL San Lazzaro. Ma per il momento, visto che non andiamo troppo avanti, vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro un buon proseguimento di serata qui su Radio 5.9. A giovedì prossimo! 5.9. 5.9.